La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici, questa è La Rosa Purpurea, questa è la parentesi, l'ampia parentesi cinematografica di Radio 24 e come sempre in quest'estate noi cominciamo con un'intervista, con un personaggio del mondo del cinema per cercare di farlo raccontare, di farsi raccontare in radio qui al nostro programma. Oggi è con noi un attore veramente poliedrico, versatile, che ha attraversato diversissime stagioni dello spettacolo italiano su palcoscenici scricchiolanti davanti ai teleschermi di quando la TV era la TV e anche con tantissimo cinema, perché questa è la nostra trasmissione, questa è la nostra vocazione. Stiamo parlando di Enrico Montesano, che sentiamo con grande piacere perché siamo convinti che riusciremo a capire durante questa mezz'ora cosa forse non va e cosa potrebbe andare meglio nel nostro cinema, che ha riconquistato, sta riconquistando quote di mercato, ma forse non ha ancora del tutto riconquistato l'anima del paese e la capacità di raccontarlo. Un saluto a Enrico Montesano. Buon pomeriggio a tutti. Enrico, eccomi qua. Allora, eccoti qua. Grazie per la presentazione. No, è ancora poco. Enrico Montesano, tra l'altro, in libreria, diciamolo subito, perché ho parlato dei palcoscenici scricchiolanti, dei monitor televisivi, ma adesso anche un libro, Un alibi di scorta, edito da Gremese, che partiamo da qua. È un libro che mi sembra con una certa amarezza e con lo stile tipico da monologhista di Enrico Montesano racconta un pochino l'Italia di oggi con appunto un retrogusto amaro che forse è il sapore che più si addice alle cose che viviamo, no? Io lo definirei un libro abbastanza cinematografico e infatti per la collana Storie per il cinema, Racconti per il cinema, perché è una cosa seria, certo, quasi un dramma, una tragedia, però è la commedia all'italiana che regna nel mio libro, spero, cioè il modo di raccontare quello che Risi, Scola o Monicelli, no, i grandi registi della commedia all'italiana, ci hanno insegnato con i loro straordinari film. Ma settimana scorsa, Enrico, c'era Maurizio Nichetti con noi, un altro volto, questa volta volto ma anche regista del cinema italiano, che a mio modo di vedere è scandalosamente fermo da troppo tempo, perché è un talento straordinario. Lui diceva... Beh, io ricordo Ratataplan. Ho fatto Splash, insomma, veramente. Splash. Lui è una persona di grande talento. Io ho preso un Davide di Donatello come regista esordiente con una commedia un po' all'americana che si chiamava Me mi piace, con volutamente un errore. Assolutamente, la ricordiamo, 1985 se non sbaglio. No? Sì, 85 sì, 85-86, non ricordo bene. Ecco, però la cosa che volevo chiederti era questa, Nichetti ci diceva, dico ma perché non vediamo più un tuo film? Dice, io di cose da dire ne avrei, ho anche un paio di sceneggiature già pronte, però dice in Italia non ci sono più i produttori. E se io vado a fare l'anticamera, vado a fare o l'anticamera della Rai o l'anticamera di Mediaset. Alla fine quelle sono diventati i produttori e mi sembra che sia un discorso che potresti fare anche tu. Ha fatto una bellissima istantanea Maurizio Nichetti, e così c'è due distributori che poi forse uno solo alla fine. Quindi non c'è una dialettica di libero mercato. Non c'è una distribuzione per il cinema indipendente, non c'è una distribuzione indipendente. Una volta c'erano i distributori regionali, gli indipendenti. Piano piano hanno preso tutto, Medusa e 01 e Rai, quindi poi sa, quando sono in due c'è un oligopolio. Uno può andare col suo copione, ma se non c'ha la distribuzione, poi una volta Gigi Magni mi disse, noi ieri il film lo potremmo pure fa, mi disse Gigi che parla così, dice poi se lo vedremo da soli. Cioè, ce lo vediamo a casa. Questo è il rischio vero, no? Perché sai cos'è successo anche nel frattempo, probabilmente che questo stato delle cose ha cambiato un po' anche il pubblico, e forse il pubblico del cinema italiano di oggi si aspetta che le cose vengano dette in un certo modo, e io ho paura non sarebbe più pronto, forse bisognerebbe riscaldarlo un po' per un cinema che appunto somigli a quella straordinaria stagione della commedia all'italiana, come la chiamavamo noi, no? Io me posso, capisci, non ricordare tutti a casa la Grande Guerra, il sorpasso, la vita difficile, o anche le commedie divertenti di Sordi, Manfredi, Tognazzi, Gasma. Quindi noi siamo stati un po' formati più che dal neorealismo, da quel cinema lì. Ecco, la nostra generazione, ecco. Però tu, Enrico, come comico anche e come attore a tutto tondo, come hai giudicato, come giudichi la stagione di grandi successi commerciali che si sta chiudendo per il cinema italiano, che ha riconquistato tipo il 50% della quota di mercato dell'Italia con film? Quest'anno è stato un po' l'anno in cui i film che sono andati un po' a sorpresa oltre le previsioni sono stati Un Benvenuti al Sud, che racconta comunque l'eterno dilemma nord-sud, sebbene in chiave di commedia, oppure Immaturi, che racconta di una generazione che non vuole saperne di crescere, oppure ancora Checco Zalone, che sarà un one man show, ma insomma la mette sempre, cioè, o pensiamo addirittura Albanese, no? Che racconta un'Italia di un certo tipo nel suo qualunque mente. Cioè, ti sembra di poter essere un filino ottimista, cioè di poter dire forse dietro questa riscossa c'è anche che qualcuno si è rimesso a raccontare qualcosa dell'Italia quest'anno? Poco poco. Volevo capire se tiravo fuori qualcosa, ma invece no. Poco. No, un tiepido raggio di sole. Albanese non mi fa ridere, quindi mi dispiace. Io sono andato a vederlo, non rido mai, però insomma questa è una questione soggettiva. Che Cozzalone mi fa ridere, ma fa le parodie, insomma, voglio dire, fa delle parodie alle volte un po' volgari. Certo, lui dice: io prendo in giro gli ignoranti, però è un'arma a doppio taglio, poi va a finire che l'ignorante si riconosce, più che altro sembra il trionfo dell'ignoranza. Poi non lo so, Immaturi invece mi è piaciuto, è un film che mi piaceva, è sempre stato un buon film, e Benvenuti dal Sud è il rifacimento di quel grande successo francese, che comunque poi fa leva un po' sui luoghi comuni, nord-sud, eccetera, però insomma era anche dignitosamente recitato, ben girato, insomma era un film... No, certo, non eravamo di fronte, diciamo, a dei capolavori, però quella cosa forse nuova di questa ultima stagione e soprattutto del periodo natalizio è stata quella di non trovare proprio il conclamato cinepanettone davanti a questi film, che insomma la gente... No, dico, dopo 30 anni il cinepanettone ha mostrato soltanto i canditi, e meno male, ma insomma sono passati quasi 30 anni di cinepanettoni, che erano veramente dei film orrendi. E gli ultimi film prima dei cinepanettoni a fare successo erano proprio quelli dove lavoravi tu, perché io ho visto un po' dove sono raggruppati i grandi successi di Enrico Montesano. C'è un quinquennio sostanzialmente, diciamo che grosso modo va dal 77-78 all'82-83, adesso fammi dire, poi ci sarà qualcosa dopo e qualcosa prima, ma trovo che lì dentro ci sia veramente un incredibile numero di successi e di grandi... Ma guarda, io negli anni 80, nel 1980, prendo una targa speciale, perché lì non hanno avuto... cioè io non avevo sufficienti amici per prendere il Davide come miglior attore dell'anno, perché ho fatto Il Ladrone, Qua la mano e Aragosta a colazione. Aragosta a colazione, che Ezic... descrive certe scene come il cinema muto e Buster Keaton, insomma lui mi ha lusingato, io sono rimasto, paragona certe scene a quelle di Buster Keaton del cinema muto, quindi quello è stato il mio Oscar, il mio Davide di Donatello. Poi c'è stato Il Ladrone, che era un bellissimo film di Pasquale Festa Campanile, mi sembrava, sì, è stato un periodo bello, d'oro, però ecco adesso... Mentre i francesi fanno Potiche, dove una signora di 65-70 anni fa la protagonista assieme a Depardieu ed è Catherine Deneuve, il cinema italiano non fa queste storie, ecco, fa storie di giovani, ecco, così giovani, massimo arriva ai quarantenni, ecco, quindi noi che ce ne abbiamo un po' di più ormai siamo tagliati fuori. Hanno arrestato Gesù di Nazaret. Gesù di Nazaret? Chi? Quello che fa i miracoli. Ma che miracoli? Miracoli, sì. Trucchi. E vuoi che non lo sappia? Alcuni ne ho fatti io prima di lui. Tu lo conoscevi? Un bravo. Ma si è montato la testa. Bisogna proprio riconoscere che se l'è andata a cercare. Ha rotto l'anima a tutti, per forza. Sarà crocifisso con due ladri tirati a sorte. Tu sei un ladro, no? Pensa se toccasse a te. A chi? A me. Una delle risate più amare della storia, questa del ladrone. L'hai citato, Enrico, l'abbiamo voluto far ascoltare. Io penso che questo film mi dà lo spunto per farti una domanda. Anche in quegli anni in cui tu lavoravi veramente tantissimo, mi sembra che tu sia stato sfruttato poco per il tuo lato drammatico, che secondo me sarebbe stato invece da valorizzare. Beh sì, però insomma, sì sì, certo, mi sarebbe piaciuto farlo, però insomma ringraziamo che abbia il cielo che abbiamo fatto le commedie. Però certo mi sarebbe piaciuto, però insomma non è detta l'ultima parola, ancora adesso si potrebbe fare delle belle cose drammatiche. Io mi consolo e mi conforta il pensiero che Frederick Murphy, ti ricordi, un grande attore, prese l'Oscar per Morte di un commesso viaggiatore, ma c'aveva 70 anni, forse più, insomma, quindi c'è sempre speranza. Assolutamente. Senti, facciamo ascoltare invece a questo punto un trailer che abbiamo trovato d'epoca, perché è molto simpatico anche sentire come venivano proposti i film e come veniva proposta una coppia come quella formata da te e da Renato Pozzetto. Sentiamo. Ciao Renato. Ciao Enrico. Buon Natale, eh? Buon Natale. Ah sì sì, già, è praticamente buon Natale. Come praticamente? Ah Renato, sei proprio una forza. Lo sai che ti dico? Che insieme stiamo proprio bene. Ma che bene? Direi benone. Eh no, come il cacio sul maccherone. Beh, direi come la poletta con gli osei. Molto, molto di più. Sai come si dice? Siamo proprio burro e alice. Ma sai cosa dicono della nostra coppia? Sì, che siamo pappe e ciccia. No, vorrei dire culo e camicia. E beh, io che ho detto? Culo e camicia. Questa alchimia con Renato Pozzetto, Enrico, come è nata e come te la ricordi, come è stata insomma per te? Ma io bene, mi divertivo molto con Renato, è un grande attore, poi spiritosissimo, e poi mi cucinava anche sempre gli spaghetti, dice Enrico, se facciamo due spaghi, e allora e noi poi abbiamo fatto anche, dopo abbiamo fatto Piedi Piatti anche, che fu un bel successo, abbiamo girato a Venezia, in una Venezia magnifica dove ancora ci facevano andare per le cali, sul Canal Grande abbiamo girato, e mi sembrava ben assortita, perché il milanese preciso, il romano un po' così, era una buona alchimia. E allora, stai con noi Enrico Montesano, perché fra poco ti dobbiamo chiedere ancora tante cose sul tuo cinema, dopo una breve pausa per sentire come vanno le cose sulle strade. La Rosa Purpurea. Siamo sempre qui con Enrico Montesano, il nostro ospite nell'intervista di questa settimana. Chiaramente Montesano ha fatto, adesso non li ho contati, ma veramente si fa fatica a metterli tutti in una pagina, i suoi film, la sua filmografia, e badate bene, sono stati quasi sempre film da protagonista. Ce n'è uno che ovviamente, come dire, è il marchio che nell'immaginario degli italiani forse più di altri ci ricorda un certo tipo di commedia. Se da una parte, diciamo, di questa riva, di questo grande fiume c'è Amici miei, dall'altra c'è ovviamente Febbre da cavallo, che è stato un episodio incredibile, che tra l'altro ha avuto anche un sequel in tempi recenti, ma che soprattutto si è totalmente inciso nell'immaginario collettivo degli italiani. Sentiamo. Macelleria Rinaldi, chi parla? Pronto? Sono la governante del Conte di Simone, largo Arenula 2. E vorremmo un etto di carne! Un chilo, che metto? Un chilo? Un chilo di carne di vitella, decente. Decente? Modestamente ho della carne che sembra viva per quanto è fresca. Non dimenticavo! Dia a suo figlio il resto di 100.000 lire, perché non abbiamo moneta spicciola in casa. Stia tranquilla, sarà fatto. Grazie, l'aspetto, buongiorno. Una delle truffe del secolo perpetrate da Enrico Montesano, che si finge signora necessitosa di carne fresca. Enrico, 1976, Febbre da cavallo, a parte che intercettate quello che sarebbe diventato un boom 30 anni dopo, ovvero questa esplosione del gioco a tutte le latitudini in tutti i momenti della giornata. È incredibilmente. Ma insomma, raccontaci qualcosa di quel background, di quella incredibile esperienza. Le sale corse erano gli unici luoghi dove il giocatore scommetteva sui cavalli, e all'epoca non si scommetteva come oggi su tutto, no? Ed era un mondo, però, se vuoi, quasi artigianale. Noi siamo andati in giro con Steno, mi ricordo, con la costumista, per cercare l'ispirazione. Io infatti ho una magliettina verde traforata sotto una canottiera a righe orizzontali che vidi addosso a qualcuno lì che girava con delle buste di plastica, sempre un po' alla ricerca del cavallo buono, anche delle 50.000 lire o delle 20.000 lire da giocare, no? E quindi è il ritratto di un'epoca che poi è cambiata poi rapidamente. Un'epoca che fa un altro balzo nel 1986, quando voi raccontate l'affermarsi di una nuova tipologia che non cambierà solo il nostro modo di fare la spesa, ma anche il modo di relazionarci a delle persone che potremmo dire fra un po' c'erano una volta, ovvero i commercianti. Stiamo parlando di grandi magazzini. Ambedi chi c'è? Aridaglie! Che hai visto per caso il dottor Azzalotti, il capo del personale? Eh? Aronni, sto a parlare con te, che fai? Non rispondi. E c'è mica niente da vergognarsi, sa? Mica si vergogna. Oggi mica è facile a trovare un lavoro. Non è facile per uno giovane, figuriamoci per uno dell'età tua, insomma, no? Anche questa non è malaccia. Le cose non andavano proprio così poi alla fine, no? Castellano e Pippo volevano fare un film su questo, ambientarlo in questo posto, no? Che era, che so, il nonno del centro commerciale, poi, in fondo, il grande magazzino, insomma. Sì, era uno spazio che, come dire, spersonalizzava, se vogliamo, un po', no? Appunto, i rapporti e tutto, e in questo somigliava molto a quello che stava accadendo a tanto tessuto della società italiana, no? Cioè, anche nel cinema forse le cose non sarebbero state più così. Guarda cosa succede oggi, per esempio, nella distribuzione con il trionfo di una struttura come i multiplex, che hanno tanti meriti ovviamente nella diffusione del cinema, ma, certo, ma hanno anche spazzato via, se vuoi, quello che era il rapporto intimo con la sala di città. Sì, non lo so, questo è un po', mi dispiace, perché il cinema sotto casa era una comodità infinita. E poi c'era anche un rapporto personale notevole con quel cinema, con quel tipo. Forse è una visione un po' romantica, mi rendo conto. Però, sì, anche ormai, però in effetti il cinema ce l'hai in casa, se vuoi, adesso, con questi grandi schermi, no? Con gli abbonamenti, con i DVD. Ma il cinema ormai ce l'abbiamo su streaming, nel computer, quindi ormai, certo, il mondo è cambiato. La multisala c'ha un gran vantaggio, che tu vai lì e dici: io un film lì lo becco, che mi piace, ne fanno 5-6, quindi è diventato anche un punto di aggregazione, no? Insomma, anche un posto dove uno si incontra, va al cinema e c'ha la possibilità di scegliere. Dal cinema sotto casa siamo arrivati al cinema in casa. Allora, parliamo invece di Vittorio Gassman, perché c'è quest'altro episodio della tua carriera, che è il Conte Tacchia, di cui ascoltiamo una clip. Mi pare giusto, state calmo. Ma io per me poi rilascio pure. Sì. Ma qui c'è stato pagato 84 lire di danni. Sì. 84 ciufoli, ma un patrizio romano non c'ha tasche. Vabbè, ce l'ho io, non vi preoccupate, sorte le calmo. 10 anni fa, il 29 giugno del 2000, moriva Vittorio Gassman, e mi rendo conto che sta arrivando la data e si sta facendo poco per ricordare questa ricorrenza triste. Ci hai lavorato insieme, un maestro impressionante. Io adesso faccio una confessione personale. Io lo incontro spesso, perché andando a trovare mia madre al cimitero di Campoverano, io passo davanti alla tomba di Vittorio e lo saluto spesso, gli lascio un fiore, e lui ha messo quella frase che voleva che si dicesse: Vittorio Gassman, attore, non fu mai impallato. E c'è scritto lì sulla sua tomba. Io diceva, lo voleva e l'ha fatto. E io dico, lui è sempre quello, Gassman, che ci ricordiamo noi della commedia all'italiana, quello scanzonato, estroverso, quello dei soliti ignoti, insomma, Gassman dei mostri. E io lo incontro spesso, lo ricordo spesso con grande affetto, con grande piacere. Quando Sergio Corbucci ci disse che il principe l'avrebbe fatto Vittorio Gassman, per me fu un grande onore. Mi sentivo proprio lusingato, onorato che lui aveva accettato di fare quel ruolo in un film dove faceva una bellissima parte, dove c'era anche Paolo Panelli, però non era il protagonista, lui era sempre stato il mattatore, no? Più grande. Ma quel duetto, insomma, con Panelli, o le scene che io facevo con lui, per me recitare con lui era come andare sull'onda con un surf, no? E volare sull'acqua, era meraviglioso. Enrico, il tempo sta finendo e allora ti faccio un'ultima domanda che è più un auspicio forse, insomma, come ritorna a galla e cosa deve essere per te in futuro il cinema italiano? Io non sono il meno indicato per dire questa cosa, però forse quello che tu hai detto in apertura di trasmissione e che diceva anche Michetti, abbiamo bisogno di produttori, abbiamo bisogno di distributori, abbiamo bisogno, e queste erano persone di coraggio, avevano coraggio, rischiavano anche un po' improprio, penso che il fatto di rischiare qualche po' di denaro proprio dava quel pizzico, quella marcia in più che il cinema prima aveva, insomma. E allora, Enrico Montesano, in attesa che Un alibi di scorta diventi un film, magari con la tua regia e con il tuo personaggio che ritorna sui grandi schermi, grazie per essere stato qui con noi alle interviste della Rosa Purpurea e a risentirci. Arrivederci, grazie a te. E dopo Enrico Montesano, linea alla regia, fra poco tutta l'attualità cinematografica nelle sale italiane alla Rosa Purpurea. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora insieme, Franco D'Assisti, La Rosa Purpurea, l'ora di cinema settimanale di Radio 24, l'ora di attualità cinematografica, le uscite nelle sale anche questa settimana, numerose anche se non tutte estremamente capillari, quindi i film che arrivano in molte sale italiane sono una cinquina, noi ve li racconteremo e ve li presenteremo tutti, a partire da quello che è e sarà sicuramente l'evento cinematografico, almeno in termini numerici, di questo fine settimana, ovvero Cars 2. Ma non anticipiamo molto, anzi, anticipiamo tutto nei nostri titoli di testa. Cricchetto e Saetta McQueen tornano sul grande schermo con Cars 2. I due amici a quattro ruote si ritroveranno a girare il mondo coi loro motori alimentati da una nuova miscela ecologica che li porterà a calcare le piste di Giappone, Inghilterra e Italia. Il premio Oscar Robert Redford firma un nuovo film da regista, è The Conspirator, la storia vera della donna ingiustamente accusata e condannata a morte per l'omicidio di Abraham Lincoln. Il regista di culto Takashi Miike torna al cinema con 13 assassini, remake dell'omonimo capolavoro giapponese del 1963. È il racconto violento e sanguinoso della vendetta di un manipolo di samurai contro un perfido potente. Quattro quarantenni depressi e delusi dalle loro vite private decidono di rivivere il passato ritornando in vacanza nei luoghi della loro giovinezza, ma al risveglio si ritroveranno catapultati negli anni Ottanta. È la storia di Un tuffo nel passato, divertente commedia con John Cusack e Chevy Chase. Oh, questo è il menù, come sempre molto ricco, e allora noi cominciamo con Cars 2. Cars 2 firmato dal Mahatma della Disney Pixar, John Lasseter, ma in coregia con Brad Lewis, e vedremo che questo forse non è stata una scelta del tutto azzeccata. È il sequel, ovviamente, del famoso Cars, che faceva parlare le macchine, le faceva diventare dei caratteri quasi umani, ed è un sequel in stile pienamente spy story. Siamo in giro per il mondo dove una magnate del petrolio sembra essersi convertito ai carburanti naturali, quindi c'è tutto il côté ecologista di questa favola, di questa storia, per promuovere, per testare l'affidabilità dei suoi nuovi carburanti ecologici, mette insieme un piccolo campionato del mondo di automobilismo composto da tre gare: Giappone, Italia e Inghilterra, nell'ordine. Chiaramente vengono chiamati a partecipare Saetta McQueen, il campione di Cars, e anche altre macchine, fra cui il temibilissimo Francesco Bernoulli, il nome della macchina italiana, tra l'altro tricolore, unica macchina con le ruote scoperte, con la tipica forma di una macchina di Formula 1. Ora, Saetta McQueen si porta dietro il suo caravanserraglio formato da Luigi e soprattutto da Cricchetto, il carro attrezzi che, come sempre, è un po' l'elemento di tenerezza di questa combriccola, ma che verrà incredibilmente scambiato per una spia sotto copertura, il che porterà chiaramente a una serie di equivoci non indifferenti. Sentiamo la clip. Sai, anch'io conosco un po' di karate. Non faccio per vantarmi, ma sul campo mi sono guadagnato una cinghia nera. Vuoi vedere una mossa? Ti stanno seguendo? Con questa mi allungo dentro il cofano di un'auto, tiro fuori la batteria, gliela mostro prima che lui si spenga. L'ho chiamata quello che ho fatto una volta per sbaglio al mio amico Luigi. Attaia! Eccolo là! Oh, fischia, forse è meglio che vada, sto per perdere il volo. Tranquillo, ho pensato a tutto io. Oh, reggiti. Che servizio di prima classe, non si passa neanche per il check-in. E allora questo è un po' alcuni dei momenti, insomma, vivaci. Ora vi risparmiamo ovviamente lo sviluppo da Spy Story, perché questo è un po' il taglio di questo Cars 2. Le cose andranno avanti, le corse andranno avanti, sostanzialmente il film si regge su queste tre corse, su tutte le disavventure che capitano al povero e sgangherato carro attrezzi nel cercare di fare la spia involontaria, ma con un discreto successo. Ora l'adrenalina non manca quando si analizza, si critica, si fa la recensione di un film Disney Pixar. Ovviamente bisogna già mettere a capo il discorso della qualità cinematografica, che è straordinaria come sempre, quindi non stiamo ovviamente per parlare di questo, stiamo però per parlare di una leggera, forse neanche tanto leggera, delusione, perché ci si aspettava molto da questo Cars 2, perché il primo episodio della saga, della serie, chissà se diventerà una saga, era stato uno dei più poetici, dei più struggenti, dei più particolari di casa Disney, questa idea di far parlare le macchine, questo sfondo di un'America interna, di un'America fatta di canyon, di una vecchia America che si contrapponeva al ruggito della nuova America, un po' arrembante, anche un po' sbruffone e arrogante, interpretata da Saetta McQueen. Pensate, la macchina old fashion di allora era Paul Newman, almeno vocalmente. Ecco, tanto che mi ricordo all'epoca, quando ne parlammo, che la Rosa Purpurea lo definì un po', per certi versi, la versione disneyana di Non è un paese per vecchi dei fratelli Coen. Cioè, il confronto fra due Americhe è una poesia struggente alle spalle. Ecco, tutto questo si perde in questo secondo episodio, che invece è una sorta di frullatore di corse. Mi ricorda tanto Michel Vaillant, un altro film non molto riuscito di qualche anno fa, film rutilante, pieno di rombi di motori, pieno di corse, di battute anche azzeccate, ma che stenta a darsi un'anima. E rispetto alla produzione più recente della Disney, forse questo è davvero, in questo senso, il film più carente, il film che rimane più freddo, forse anche per una volta come il cortometraggio che lo anticipa. I cortometraggi Pixar, si sa, sono delle specie di colpi di genio, e invece qui anche il cortometraggio è un po' in linea con un prodotto che sembra fatto più per allungare il merchandising di questo brand, che è quello di Cars, che non per raccontare effettivamente qualcosa in più di questi personaggi. Questo per quanto riguarda Cars 2, che comunque non abbiamo assolutamente dubbi troveremo in vetta alle classifiche di incasso, anche perché il battage pubblicitario è stato strepitoso, il cast vocale è fatto di talenti, c'è dentro Sofia Loren, Tiberio Timperi, Marco Messeri, Alex Zanardi, Franco Nero, questo nella versione italiana, Sabrina Ferilli, eccetera eccetera eccetera, Alessandro Siani, simpaticissimo, il protagonista del film con Claudio Bisio, Benvenuti al Sud, che appunto fa un po' il Francesco Bernoulli napoletano. Insomma, cast straordinario, tecnicamente c'è tutto, però gli manca un po' di cuore a questo Cars 2. E allora noi a questo punto diamo la linea alla regia, fra poco torniamo qui insieme alla Rosa Purpurea per parlare invece di un bel filmone americano come The Conspirator di Robert Redford. La Rosa Purpurea. Hanno sparato a Lincoln. Una sola pallottola può aver ucciso il nostro presidente, ma non un solo uomo! E allora, questo è un passaggio breve ma decisivo, diciamo così, decisivo di una tesi, decisivo di quello che è stato un solco tracciato nella storia e dalla storia per uno dei processi più importanti di tutti i tempi, ed è un brano del film The Conspirator, il ritorno dietro la macchina da presa di Robert Redford, che arriva nei cinema italiani in questo fine settimana, con il quale vogliamo aprire questa parte della Rosa Purpurea. È un film grosso, importante, tanto per il cast, che va da James McAvoy, protagonista, a Robin Wright, ex Penn, a Kevin Kline, a Evan Rachel Wood, e potremmo continuare con altri nomi importantissimi. Mi vengono in mente due volti straordinari del cinema americano come Tom Wilkinson, ma anche del cinema britannico come Colm Meaney. Insomma, c'è davvero un cast importante alle dipendenze di Robert Redford per un film, manco a dirlo, di impegno civile, un film che esplora il passato per raccontare il presente, come sentiremo fra poco dalle voci dei protagonisti. Siamo nel 1865, l'ufficiale Allen, Aikin anzi, Allen è solo un regista, l'ufficiale Frederick Aikin, nordista, convinto intimamente, è sopravvissuto alla guerra civile e vorrebbe vivere la sua professione, quella di avvocato, dentro un tempo di pace che fosse davvero reale. Ma presto le cose non andranno così, perché succede che viene assassinato niente meno che Abramo Lincoln. E nel tribunale militare, badate bene, non civile ma militare, perché si dice è un atto di guerra e c'è bisogno di un tribunale di guerra, viene chiamata come massima, diciamo, esponente dell'accusa, insomma la testa che l'accusa vorrebbe, una donna, Mary Surratt, che è accusata di complicità nell'assassinio perché è proprietaria di una pensione dove si trovavano a volte alcuni dei cospiratori, e anche madre di John Surratt, amico e frequentatore anche a sua volta degli uomini coinvolti in questo processo per la morte di Lincoln. Il giovane avvocato idealista all'inizio non vorrebbe neanche sposarla questa causa, perché dice: come faccio a difendere una sudista? È una causa indifendibile, tra l'altro anche un po' la disprezza, diciamo, disprezza lei e disprezza la causa ovviamente dei sudisti, ripetiamo, una cicatrice ancora da chiudere, da rimarginare, quella della guerra civile nella quale Frederick Aikin, che è appunto James McAvoy, ha rischiato di morire. Ma viene convinto dal suo principale, diciamo così, appunto Tom Wilkinson, che questa causa è una causa importante, che bisogna cercare di fare di tutto con quei pochissimi mezzi che ci saranno, perché c'è una giuria praticamente già precotta e precostituita, c'è un solco, come abbiamo sentito anche dalla clip, già tracciato, si cerca sostanzialmente un capro espiatorio più che colpevole, e in questo senso si muove anche l'accusa al processo. Siete accusata di aver accolto, protetto e nascosto John Wilkes Booth, John H. Surratt e i loro compagni confederati mentre cospiravano proditoriamente per uccidere il presidente Abraham Lincoln, il vicepresidente Andrew Johnson e il segretario di Stato William Seward. Come vi dichiarate? Sono innocente. E questa è la linea di difesa della donna, una straordinaria invecchiata Robin Wright nel film. Innocente dall'inizio alla fine, non ci sono cedimenti, e starà al giovane avvocato appunto tentare di trovare tutti i modi, fra l'interrogatorio e i testimoni, che però sono, diciamo così, ampiamente malleabili e sensibili alla parte dell'accusa, anche tirando in ballo l'altra figlia della donna, insomma cercare qualcosa che riesca a far scrivere un destino e un verdetto diverso da quello che sembra già scritto. Ma è una battaglia che sembra senza storia, una battaglia che appassiona ma anche un po' deprime. Il giovane avvocato, che pensava di aver combattuto per un'America libera e a disposizione di tutti, invece si trova di fronte a una realtà che non è quella. Ti rendi conto che il processo ai cospiratori comincia oggi? Allora noi cosa faremo? Difenderemo uno degli otto. Il braccio destro di Butta era suo figlio John. Siete consapevoli di cosa siete accusata? Rischiate l'impiccagione. Sono una donna del sud e una madre devota, ma non sono un'assassina. Vostro figlio è l'unico che è riuscito a fuggire. Quelle sono persone spregevoli, le stesse contro cui hai combattuto rischiando la vita. Qualcuno deve pagare per questo, è la gente che lo vuole. Un thriller, diciamo così, giudiziario, in pieno stile giudiziario, anche se ambientato 150 anni fa, ma poco importa, i meccanismi sono proprio quelli del legal thriller americano classico, però, come dicevamo, con uno sfondo di impegno civile importantissimo, perché è un film che parla di un fatto clamoroso di ieri, per raccontarci, come sentiremo fra poco, anche quelli che sono i diritti negati, le negazioni, le privazioni delle difese in certi processi, anche nel nostro oggi. Cinematograficamente un film di grande raffinatezza, girato con come non si fa quasi più, tra l'altro, Hollywood, film in costume, grandi spazi, grandi masse, messa in scena davvero importante, un cuore pulsante, partecipante, quello di Robert Redford, che si sente dal primo all'ultimo minuto. So che è un estimatore di questo film anche Boris Sollazzo, che troviamo in un aeroporto, viaggiatore indefesso. Boris, ciao, come stai? Un ammiratore, direi quasi scatenato. Bene, grazie Franco. Devo dire che The Conspirator è un film abbastanza speciale, nel senso che ci riporta un po' indietro, non tanto alla storia americana di Abramo Lincoln, ma a un certo cinema civile che abbiamo abbandonato. Come dici tu, è girato veramente anche nella fotografia, oltre che nelle scene di massa, come raramente vediamo più, forse alcuni potranno considerare anche un certo tipo di stile abbastanza vecchio, però di fatto quell'America che cerca gli assassini di Lincoln è l'America che cerca gli assassini di Kennedy, è l'America che cerca gli attentatori dell'11 settembre e rinuncia per la ragione di Stato, e ricordiamolo, nessuno meglio dell'Italia lo sa che la ragione di Stato ha sempre torto, che cerca di trovare i colpevoli per tranquillizzare il proprio paese o forse solo per terrorizzarlo di più. Redford riesce a parlare con la storia al presente e lo riesce a fare, secondo me, meglio di chiunque altro, e continua a fare scuola. Pensiamo a Clooney, che da regista, a mio parere, cerca di percorrere esattamente il solco di Robert Redford. E di questo è convinto anche uno dei protagonisti, Kevin Kline. I think it is. It's how a nation reacts to being traumatized, whether it's by an attack. Penso che questo sia il modo di reagire di una nazione dopo un trauma, dopo un attacco, una rivoluzione o una guerra civile, e anche le conseguenze dell'onda emozionale. Oggi è molto simile, e infatti la legge o i diritti certi, quelli basilari nella Costituzione democratica, possono essere molto facilmente cancellati a volte. Dipende dalle urgenze e dalle circostanze del momento. E questo era Kevin Kline. Abbiamo parlato di The Conspirator, di Robert Redford. Giochiamo insieme, prima traccia del film misterioso di oggi, sentiamo. Se ritenessi che ci fosse più dell'1% di probabilità che lei possa avere successo, sarebbe ragionevole che io continuassi con questa operazione. E allora, se avete già indovinato di che film si tratta, siete dei maghi oppure l'avete visto al cinema, ma il nostro indirizzo di posta è larosapurpurea@radio24.it. Più tardi ci saranno ancora un paio di possibilità per provare a vincere questo Blu-ray. Adesso abbiamo ancora un paio di film velocemente da affrontare. Chiedo alla regia di mandare subito in onda una clip di 13 assassini. Se questo caos continuerà, saranno cancellati anni di pace. Ho cercato nella mia anima una soluzione. E la soluzione siete voi. Samurai, siete pronti a morire? Sì! Sì! Tredici uomini non ne sconfiggeranno 200. Siete voi il signore di Akashi? Dovete ucciderli! Uccideteli tutti! E allora questa era una clip del film 13 assassini di Takashi Miike, regista di culto che torna con una storia di samurai, insomma, nel pieno della cultura giapponese, una sorta di cappa e spada giapponese, il genere si chiama Jidaigeki da quelle parti, che è tra l'altro un remake di un film degli anni 60. 13 assassini sarebbero 13 samurai vendicatori che vanno a sfidare il cattivo e prepotente, oltre che potente, presidente di turno per farlo fuori in una battaglia che si svolge in un villaggio che in termini di messa in scena è davvero di grande, grandiosa anzi fattura. Un film che mischia la filosofia del samurai, il suo senso del dovere, il suo senso del sacrificio estremo a un genere cinematografico che appunto ha fatto grande molto del cinema giapponese e non solo orientale degli ultimi tempi. Invece, questo appunto il consiglio su Takashi Miike, su 13 assassini, c'è un film che arriva dall'America sempre in questo fine settimana e che si intitola Un tuffo nel passato. Sentirete riecheggiare un po' di Ritorno al futuro. Sentiamo. Watch out, here I come. Che diavolo è successo ieri sera? C'è qualche strano revival di roba retro. Qui c'è qualcosa che non mi torna. Quello ascolta musica a sette, scalda muscoli. Ci sarà una spiegazione. Riccioli alla Prince. Scusi, di che colore è Michael Jackson? Nero. Siamo negli anni Ottanta. Siamo tornati indietro nel tempo. Ho paura. Una vasca idromassaggio. Macchina del tempo. Siamo negli anni Ottanta. Amore libero, che figata. Ciao, andiamo via questa testa. Mamma. La macchina del tempo è nascosta nella vasca idromassaggio, ecco il tuffo nel passato del titolo, un film con John Cusack, ma anche con un invecchiato ai noi, Chevy Chase, protagonista di tante battaglie della comicità semidemenziale americana degli anni Ottanta. Come dicevo, Boris, un film nel quale riecheggia davvero troppo, forse, un plot già visto, appunto quello di Ritorno al futuro. Sì, invece della DeLorean c'è una Iacuzzi, invece dell'ironia sottile di Ritorno al futuro che tornava ad anni di boom, si torna agli anni di vuoto, tra virgolette, degli anni Ottanta, si cerca di tornare anche a quella comicità demenziale che negli anni Ottanta funzionava e che adesso, a dir la verità, risulta davvero un po' datata, come hai detto tu, anche Chevy Chase e John Cusack, che un po' fanno tristezza così invecchiati, non perché non si debba invecchiare, però purtroppo a Hollywood c'è l'obbligo di invecchiare un po' meglio di come hanno fatto loro, sia attorialmente sia proprio nell'aspetto fisico. Ne esce fuori un film nostalgico in cui quelli magari come me o come anche te, credo, hanno amato quel genere, riusciranno a trovare ogni tanto qualche barlume di risata e qualche barlume della vecchia comicità. Però davvero sembra un film datato, ecco, un tuffo nel passato, però un po' troppo indietro forse. Boris, rimani con noi perché fra poco parleremo di due documentari musicali che singolarmente e bizzarramente forse anche escono nella stessa settimana in Italia. Prima però linea alla regia. La Rosa Purpurea. Ancora insieme, Rosa Purpurea che prosegue a zonzo fra le novità cinematografiche di questo fine settimana. Come dicevo prima, la distribuzione italiana tante volte regala davvero delle perle. Due film che sono due documentari musicali, due documentari che raccontano due fenomeni musicali diversi, ma di grandissima qualità entrambi, che escono nello stesso fine settimana. Ora c'è anche il rischio, adesso magari il pubblico di Michel Petrucciani è un pubblico di jazzofili, quello dei Doors è un pubblico più rock, però insomma magari il rischio un po' di levarsi pubblico l'uno con l'altro alla fine c'è. Tra l'altro, dietro il primo film che vogliamo analizzare di questi, che è appunto When You're Strange, dedicato a Jim Morrison e all'avventura dei Doors, c'è un nome che a livello attoriale è stato un nome di quella New York cinematografica anni fine anni 80 inizio anni 90, che cercava un po' di essere alternativa rispetto al mainstream. Lo vediamo, stiamo parlando di Tom Di Cillo. Allora andiamo ad ascoltare questa clip. Rock music bands all over the world are in mourning today. Jim Morrison, lead singer of the Doors, was found dead in his Paris apartment this morning. Morrison was 27 years old. Goodbye, Jim. Ladies and gentlemen, the Doors. Cosa succede, Boris Sollazzo, se a metà degli anni 60 in California, a Venice Beach, si incontrano un signore che suona le tastiere, anzi un ragazzo che suona le tastiere, si chiama Ray Manzarek, e un 22enne aspirante poeta di nome Jim Morrison? Beh, succede l'inferno o il paradiso, a seconda della parte in cui stai, dell'amore che puoi provare per quelli che saranno poi i Doors. Direi anche che se poi direi quasi mezzo secolo dopo, si incontrano Tom DiCillo e quel ragazzo alle tastiere, forse si rende anche giustizia rispetto a un film come quello di Oliver Stone, che come spesso accade a Stone era più attento a una storia da raccontare che alla storia vera da raccontare. Tom DiCillo si diverte a cercare l'arte all'interno dei Doors, l'aspetto emotivo di un ragazzo che da tutti è stato spesso dipinto come un demonio e che invece era uno a cui piaceva la musica e che ogni tanto forse cedeva e che sapeva usare le parole come nessuno. E lo fa con amore, lo fa a volte con ingenuità, ci sono forse due o tre parti che sono troppo didascaliche, troppo elementari, però ne esce fuori qualcosa che specialmente per gli appassionati dei Doors sarà poesia pura e quindi se la godranno molto. Ecco, questo per quanto riguarda When You're Strange, allora, di Tom DiCillo, una certa nobiltà cinematografica anche nell'altro documentario musicale, almeno visto che il regista è appunto Michael Radford, già regista, chiaramente citiamo il suo episodio più famoso, che è quello del postino con Troisi, ma insomma regista affermato. E qui stavolta invece si parla di un altro personaggio incredibile, sicuramente meno noto ai più, uno dei più grandi jazzisti, pianisti jazz probabilmente di tutti i tempi. Stiamo parlando di Michel Petrucciani, scomparso, un virtuoso, un pianista dal tocco davvero incredibile, francese, affetto da osteogenesi e nanismo, per cui occorreva tecnicamente, realmente portarlo in braccio sul pianoforte. Ma come dire, che da questa condizione ha fatto esplodere un'energia musicale impressionante. Davvero vederlo suonare e sentirlo suonare era qualcosa di incredibile. E stavolta appunto Michael Radford firma un ritratto di Michel Petrucciani in questo Body and Soul. È una storia, Boris, questa che mette dentro sì l'aspetto musicale ma anche l'aspetto incredibilmente umano della forza d'animo di quest'uomo che ha voluto arrivare dove sapeva di poter arrivare, fregandosene tranquillamente di tutti i suoi problemi fisici. Era un nano gigante, se vogliamo usare un simbolo. Redford lo fa con... Redford è uno che sa raccontare o sa usare, tra virgolette, i geni imperfetti, quelli che hanno qualcosa insomma di guasto a livello fisico, ma non sicuramente a livello di genio. Lo ha fatto con Troisi e lo fa adesso con Petrucciani. Ne esce fuori un documentario divertente, commovente, che ti fa arrabbiare, perché Petrucciani era pieno di difetti almeno quanto era pieno di pregi, e ogni tanto c'è questa musica straordinaria, piena di energia, proprio come era lui, piena di dolore, piena di forza, piena di innaturale talento, perché era qualcosa più che innaturale, soprannaturale. Ecco, quello che dico, tu dicevi forse si potrebbero rubare la scena l'uno con l'altro, i due documentari, secondo me invece si tireranno la volata l'uno con l'altro, perché sembrano gemelli Petrucciani e Jim Morrison, nonostante siano così diversi a livello fisico e artistico, sembrano essere nati la stessa forza di esprimersi e di voler stare al mondo nonostante tutto e tutti. E allora, godiamoceli al cinema questi due documentari, When You're Strange su Jim Morrison e Doors e Body and Soul su Michel Petrucciani. Grazie Boris, a risentirci. Grazie a te e spero di non stare sull'aereo più pazzo del mondo. Augurio che ci sentiamo di condividere quello con Boris Sollazzo. Allora, siamo arrivati alla seconda traccia del film misterioso di oggi. Buongiorno, mi chiamo Guido, signore. Sono il suo cameriere. Io sono Frank. Che cos'è? La sua colazione, signore. Io non l'ho ordinata. C'è qualcuno che ordina una colazione e qualcuno che gliela serve. Questo potrebbe già essere un indizio, se non avete ancora capito di che film si tratta. La Rosa Purpurea, @radio24.it, più tardi. L'ultima possibilità. Oh, e siamo arrivati al momento di parlare di un festival, di dare spazio a un festival importante, a un festival storico del panorama italiano. La Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, giunta alla 47esima edizione, questo vi dice tutto l'onore e la storia che ci sta dietro, a Pesaro, e che volge al termine proprio in questo fine settimana, è uno dei festival italiani che chi ama il cinema ama di più, quasi in contemporanea, quasi in automatico, perché è un festival di grande rilievo. rigore, un festival che racconta il nuovo cinema, racconta cosa si muove sotto la pelle della settima arte, ma ha anche la grande capacità di far incontrare il pubblico, che è sempre numeroso e molto caloroso, con i grandi nomi del cinema italiano. Mi era capitato qualche anno fa di essere a Pesaro proprio quando venne Ermanno Olmi a incontrare il pubblico, e fu uno degli incontri che ancora ricordo quasi con i brividi, perché sentire parlare per un'ora Ermanno Olmi non è una lezione di cinema, è una lezione di vita. E certo, questa volta si è sparato ugualmente in alto, cioè Bernardo Bertolucci è lui l'uomo dell'anno per quanto riguarda la Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro, e quindi insomma, recentemente premiato a Cannes con una Palma d'Oro alla carriera, arriva il riconoscimento, l'omaggio di uno dei più antichi festival italiani. Noi parliamo con Giovanni Spagnoletti, che dirige il Festival di Pesaro e che è in collegamento con noi. Ciao Giovanni. Ciao, grazie. Beh, Bernardo Bertolucci è un vecchio amico della mostra. Diciamo che quando il festival nacque, alla metà degli anni 60, uno dei cineasti a cui si faceva riferimento proprio per il concetto di nuovo cinema era lui. E lui ha partecipato anche attivamente alle prime edizioni della mostra all'epoca. Quindi è un ritorno a Pesaro di questo grande regista, non un arrivo improvviso. Ecco, praticamente Giovanni, tutti i film di Bertolucci durante questa settimana, e ti chiedo, Bernardo Bertolucci, per quelle categorie critiche che piacciono tanto alla stampa specializzata, lo possiamo definire come l'avanguardia della Nouvelle Vague in Italia? Beh sì, quello lo è stato. Poi ha cominciato a fare un cinema che formalmente rimaneva profondamente legato ai moduli dell'innovazione stilistica delle Nouvelle Vague europee, ma che si è aperto a un pubblico internazionale, quindi un pubblico, un'opera non solo di espressione ma anche di comunicazione. È davvero incredibile la capacità di Bertolucci, sì certo, negli anni, però, di passare dalla Comare Secca appunto all'Ultimo Imperatore, dalla Strategia del Ragno al Tè nel Deserto. Giovanni, se dovessi consigliare a un giovane, a un adolescente, perché il nostro problema è sempre quello poi di trasmettere questi film a chi è nato molto molto dopo, perché poi noi li conosciamo, insomma, diciamo così, con cosa si può cominciare una marcia d'avvicinamento al cinema di Bertolucci? Beh, io comincerei decisamente come Prima della Rivoluzione, che è forse il suo film più bello degli esordi, e poi andrei avanti rivedendo Novecento, che è il film dell'Unità d'Italia, e via via con Il Tè nel Deserto o L'Ultimo Imperatore, che sono film, diciamo così, di grande impegno internazionale, con grandi star. Bernardo sta preparando un nuovo film in 3D per dimostrare appunto che anche gli autori possono lavorare con questo formato che viene considerato solamente e unicamente spettacolare. Grazie Giovanni Spagnoletti, direttore della Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro, fino al 27 giugno. A risentirci. Grazie, ciao, arrivederci. E allora adesso linea alla regia, sentiamo come vanno le cose sulle strade, fra poco torniamo insieme perché dobbiamo parlare di tutto quello che ci sarà da vedere la prossima settimana sul piccolo schermo. La Rosa Purpurea. Siamo qui alla fine della Rosa Purpurea, ma c'è ancora qualche minuto da dedicare ai film in on video e a quelli che invece arrivano dal piccolo schermo delle televisioni. Film TV, come sempre, il settimanale Film TV ci fa un po' di selezione fra i film in chiaro e gratuiti che il digitale terrestre ci offre nella settimana prossima. Compito affidato oggi a Claudio Bartolini. Ciao Claudio. Ciao Franco, ben ritrovati con le segnalazioni di Film TV per la settimana. Comincerei parlando di lunedì 27 giugno. In prima serata su Canale 5 avremo Vicky Cristina Barcellona. Prima visione TV, una Woody Allen turistico che dopo le tappe britanniche di Match Point, Scoop e Sogni e Delitti si sposta in Spagna per dar vita a una commedia ben interpretata da Scarlett Johansson, Penelope Cruz e Javier Bardem. Un triangolo amoroso che mischia sessualità e umorismo in un cocktail piuttosto felice, anche se non del tutto compiuto. Allen proseguirà il suo tour europeo spostandosi poi a Parigi per girare Midnight in Paris. È proprio Woody Allen che in questi giorni è appunto in sopralluogo a Roma, invece ha anche annunciato il cast del suo nuovo film che girerà proprio nella città eterna. E allora si chiamerà The Bop Decameron, tra l'altro, questo è il titolo. Vicky Cristina Barcellona, lunedì 27 giugno, Canale 5, 21:10, in prima serata e in prima visione TV. Un salto indietro invece, anzi una vera e propria maratona, Il Secondo Consiglio. Continuiamo con sabato 2 luglio, dove troviamo una maratona proposta da Iris a base di Vittorio De Sica. Nel pomeriggio alle 15:20 Ladri di biciclette, alle 17:10 Umberto D, quindi toni drammatici, toni intensi e un bianco e nero struggente per opere a cavallo tra neorealismo e post-neorealismo. In serata invece troviamo alle 20:30 Boccaccio 70, un film collettivo che De Sica girò con Fellini e Visconti. Infine alle 0:15 Il Conte Max, commedia del 1957 interpretata da Alberto Sordi. Quindi serata con il De Sica divertente, con il De Sica che ci fa gioire in compagnia di Sofia Loren, Peppino De Filippo e appunto se stesso. È davvero una veramente una buffata per chi vuole e può anche registrare, ovviamente, questa di sabato 2 luglio su Iris dalle 15:20, maratona Vittorio De Sica. Grazie a Claudio Bartolini, a risentirci. Grazie Franco, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori di Radio 24 dalla redazione di FinTV. Appuntamento come al solito a settimana prossima. Ebbene, bene, allora settimana prossima ci risentiremo con gli amici di FinTV. Prima però abbiamo da farvi sentire l'ultimo frammento misterioso del film con cui stiamo giocando oggi. Stiamo entrando nella suite del Doge. Non esagero nel dire che è stata quasi una seconda casa per Marcel Proust, Honoré de Balzac e altri. Grazie. E allora, se avete già indovinato di che film si tratta, se avete finalmente indovinato di che film si tratta, perché la trasmissione sta finendo, La Rosa Purpurea @ radio24.it, nome, cognome, indirizzo, per provare a vincere il Blu-ray di questo film. E a proposito di vincere e di vincitori, andiamo indietro di una settimana e sentiamo cosa avevamo proposto 7 giorni fa. David, posso farti una domanda? Dimmi la verità, te la scoperesti? No, nessuno lo farebbe. Nina, tu balli come una frigida. Ballare, un coreografo piuttosto duro che mette alla berlina la sua pupilla, e allora era il Cigno Nero. Moltissimi hanno partecipato, molti hanno indovinato, ma i più veloci del sabato e della domenica sono stati Massimiliano Cirillo di Carpi, provincia di Modena, e Chiara Girotto di Carbonera, provincia di Treviso. Saranno loro a ricevere il Blu-ray di questo film, Il Cigno Nero, che aveva aperto con la regia di Darren Aronofsky il Festival di Venezia lo scorso anno e del quale ci facciamo raccontare, almeno a livello di emissione o un video, tutto da Claudio Poffi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. L'edizione Blu-ray è veramente di notevole qualità, sicuramente il DVD, ma su tutte sicuramente l'alta definizione, in questo caso ha davvero una marcia in più perché, attenzione, l'immagine è ruvida, c'è questa cinematografia che ha grana e pervade l'intera opera, ma non va scambiata per limiti, ma legata veramente a precise scelte stilistiche, perché il regista ha utilizzato mezzi un po' diversi di ripresa, cineprese 16 mm e telecamere alta definizione. Tra l'altro il Blu-ray offre una traccia TTS in italiano notevole, ancora meglio quella ad alta risoluzione in inglese. Ci sono tantissimi extra, su tutti sicuramente un documentario sulla lavorazione di 49 minuti, vari focus su scenografia, costumi di scena e le difficoltà relative alla ripresa delle sequenze di danza. Questo era Il Cigno Nero. Rimaniamo alla stagione cinematografica che si va chiudendo con un film molto atteso, con un attore che io amo molto come Paul Giamatti e con un bestseller alle spalle che è un vero e proprio libro di culto per i quarantenni di oggi. Oggi stiamo parlando della versione di Barney. Forse dovresti fare un passo indietro prima di prendere decisioni avventate e aprire bene gli occhi sulla situazione. Sei sposato con una donna molto istruita e ricca sfondata, che sa preparare ottimi kugel e ha 2 bellissime tette. Parecchi matrimoni riusciti funzionano con molto meno. Ebreo e produttore televisivo, Barney Panofsky ha 3 matrimoni finiti alle spalle e, come abbiamo ascoltato, un padre affettuoso, ex poliziotto, col vizio del sesso e degli aneddoti. Problemi nella vita ne ha avuti e continua ad averne, ma il peggiore è sicuramente un detective che ha scritto un libro su Barney che getta non poche ombre sulla sua colpevolezza nell'omicidio del più caro amico. Dall'omonimo romanzo di Mordecai Richler, l'interessante riduzione cinematografica, e da Medusa Film Home Entertainment l'uscita DVD, ma soprattutto quella Blu-ray, sono entrambi di eccellente qualità. Il Blu-ray in più offre oltre alle immagini anche una doppia traccia di TS ad alta risoluzione italiano e in inglese. Tra gli extra segnalo riflessioni sul film da parte del giornalista Giuliano Ferrara, un backstage e scene tagliate alternative. E allora, tutto ci potevamo aspettare ovviamente da Danny Boyle, che è uno capace di disorientare, ma insomma da Mr. The Millionaire forse non ci aspettavamo un film come 127 ore, una storia incredibile, tutta praticamente ambientata in un crepaccio. Ascoltiamo. Stavo scendendo dal Blue John ieri quando questa grossa roccia si è spostata e mi è caduta sul braccio. Ora sono bloccato, il mio pollice diventato di un colore blu-grigio. Giovane alpinista americano, Aaron pratica il trekking in bici, ma durante un'escursione in un canyon il braccio destro finisce bloccato e in parte schiacciato tra due rocce, impedendogli di chiamare soccorso. Stanco e disidratato, compirà un gesto estremo pur di salvarsi la vita. Da un fatto realmente accaduto, l'opera appassionante del regista Danny Boyle con un'altrettanto convincente prova d'attore da parte di James Franco. L'uscita Fox Home Entertainment è anche questa di eccellente qualità, sia il DVD ma soprattutto il Blu-ray, in questo caso ancora migliori le immagini e superiori rispetto al DVD per il Blu-ray, audio DTS in italiano, ad alta risoluzione quello in inglese, tra gli extra tutto da seguire il commento audio del regista assieme a produttore e sceneggiatore, ci sono approfondimenti sulla lavorazione, ma attenzione, è presente un finale alternativo della durata di 20 minuti circa. Grazie Claudio, appuntamento alla prossima settimana. Ciao, a presto. Giusto il tempo di salutarsi, possono correre i titoli di coda. La Rosa Purpurea finisce qui, appuntamento la prossima settimana, il sabato dalle 17.30, prima con l'intervista della Rosa Purpurea e poi con l'ora di cinema, di attualità cinematografica, e poi la domenica invece la replica, come sempre, dalle 15. Un saluto da Franco D'Assisti.